provocando disordini, riot ed espropri. Un migliaio di giovani non organizzati stanno mettendo a ferro e fuoco la città e stanno da ora innescando scontri con le forze dell'ordine. I testimoni oculari riferiscono che ad un certo punto in tutto il centro storico di Genova si è sentita una strana musica e centinaia di giovani sono usciti dai vicoli riversandosi in strada, come sotto un effetto ipnotico. Le autorità competenti stanno investigando sull'accaduto. Alcune indiscrezioni parlano di due giovani musicisti locali e di un loro covo nei bassi fondi del centro storico. Qua, cosa facciamo questa sera? Quello che facciamo tutte le sere, Mel. Cercare di conquistare il mondo. You already have a wife.